Detto ciò, oggi il governo, che lo ricordiamo in carica per l'ordinaria amministrazione, è ripartito. In realtà, da dove cadde l'anno scorso? Andrea Viali, è così? Sì, è così. Stamattina si è riunito il Consiglio dei Ministri e tra i vari provvedimenti urgenti che ha esaminato ha approvato, ha dato il via libera al decreto sulle missioni militari all'estero. Tra l'altro è stato un voto non unanime perché non hanno votato i ministri della sinistra arcobaleno che, come ha detto il ministro Ferrero, chiederanno in Parlamento una verifica della missione in Afghanistan, ma anche una discussione su ogni singola missione militare dei nostri soldati all'estero. E come ricordavi giustamente, un anno fa, esattamente a fine febbraio del 2007, proprio da un voto sulla politica estera che riguardava le missioni militari, ma anche la questione dell'ampliamento della base americana di Vicenza, proprio su un voto appunto su una questione di estero, il governo era stato battuto al Senato, Prodi era salito al Quirinale per presentare le dimissioni, dimissioni che però erano state respinte da Napolitano, poi il governo aveva ottenuto la fiducia delle due Camere e la crisi era così rientrata. Oh Andrea, oggi sono uscite anche informazioni sull'agenda di questa crisi che prevede gli incontri di Napolitano con 22 partiti, tanti sono i partiti rappresentati nel Parlamento italiano. Ci dai qualche dettaglio su questa agenda? Esatto, allora il calendario è stato diffuso stamattina, come dicevi, nel pomeriggio invece cominceranno le consultazioni, sinteticamente i primi a salire al Quirinale saranno Bertinotti e Marini, presidenti di Camera e Senato. Domani Napolitano ascolterà i rappresentanti dei molti partiti minori, domenica invece sarà una giornata di pausa, di riflessione probabilmente per il Capo dello Stato che lunedì invece riceverà le delegazioni di Lega Nord, UDC, Rifondazione Comunista e Alleanza Nazionale. Martedì infine si chiuderanno le consultazioni, probabilmente si chiuderanno e a salire al Quirinale saranno Forza Italia e il Partito Democratico, quindi i principali partiti, ma anche i tre ex presidenti della Repubblica, Cossiga, Scalfaro e Ciampi. Grazie Andrea Viali. Noi ritorniamo brevemente sulla giornata di ieri. Vediamo che fotografie ci lascia la seduta parlamentare. Sputi, urla, botte, fischi, corna, mortadella, bottiglie di champagne, cronaca di una giornata surreale, quella della fine del governo Prodi. Prima istantanea, Nuccio Cusumano, senatore dell'Udeur, riverso sui banchi, la bocca spalancata, sviene, colto da un malore. Aveva deciso di disobbedire a Mastella, aveva appena annunciato il suo sì al governo Prodi. Scelgo per il paese, scelgo per la fiducia a Romano Prodi e al suo governo. Fa appena in tempo a concludere che Tommaso Barbato, compagno di partito, scatta rabbioso e gli si scaglia contro, insulti, minacce, traditore, grida, ma l'epiteto più leggero. Senatore Barbato, la prego. Senatore Barbato, prego. I commessi lo bloccano, ma non si arrende, sputa all'indirizzo del senatore. Si associa Nino Strano, AN, sei un cesso, dice. In tre portano via Barbato a braccia, gli tappano la bocca con le mani. L'aggressione ha effetto su Cusumano, che si accascia e scivola sotto i banchi. Portato via in barella, verrà poi espulso dall'Udeur per indegnità politica. Marini sospende la seduta. La seduta è sospesa per 5 minuti. Ma Barbato, intervistato dai cronisti, non ricorda più nulla. Non ho sputato in aula. Ho detto quello che pensavo in quel momento, che era un traditore. Non penso di averlo offeso, non l'ho offeso assolutamente, ho detto soltanto che era un traditore. Seconda istantanea, il reparto invalidi. Saporito, Alleanza Nazionale, spalla fasciata e braccio al collo. Possa, Forza Italia, su sedia a rotelle con gamba tesa. Cossiga, sorretto da bastone. Vengono fatti sistemare per qualche ora al banco dei relatori, il posto più comodo. Si sarebbe aggiunto anche Mastella, aveva annunciato un malore, ma poi si presenta in forma. Sono da poco passate le 8, è il momento della conta dei voti, l'annuncio del presidente della Camera Marini. Terza istantanea, dai banchi del centrodestra esplode un boato, l'aula da ring diventa curva sud, urla, applausi, i senatori di AN stappano bottiglie di spumante, lo rovesciano sulla moquette, Nino Strano si infila in bocca una fetta di mortadella. Quest'aula non è un'osteria, saranno le ultime parole del presidente Marini. La seduta è chiusa, fine del governo Prodi. Alessandra Schepisi, GR24 e Sole 24 Ore, Roma. E mentre al Senato si procedeva tra drammi e malori, come abbiamo sentito, in piazza si festeggiava, nella piazza del maxischermo allestito da Alleanza Nazionale. Sentiamo il racconto. Iniziano ad arrivare poco prima delle 18 i militanti davanti al maxi schermo allestito lungo via del corso d'Alleanza Nazionale. Sembra quasi di assistere a una partita di calcio. Alcuni gruppetti hanno bandiere e trombe. Il clima è un po', lo dico sempre, come la finale dei mondiali. Aspettiamo, speranzosi. Sullo schermo però c'è l'emiciclo del Senato. Inizia la chiama, a ogni voto un commento. Cossiga, Cossiga sì. Alle 20.36 esplode l'entusiasmo. Senatori favorevoli 156, contrari 161. Folla dei militanti anche i loro leader, tra loro Gianfranco Fini, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri. Una grande gioia, ora elezioni. Soddisfatti perché finalmente abbiamo potuto determinare le condizioni perché l'Italia riparta. Resterà in vigore la legge Gasparri, quindi per me una vittoria nella vittoria. Francesca Malaguti, GR24, Il Sole 24 Ore Roma. Muori lentamente chi è scavo do abito, ripetendo tutti i giorni os mesmos itinerários. Chi non muda di marca non si arrisca a vestire una nuova cor. Lentamente non muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. E questa è una poesia, signor Presidente, di Pablo Neruda, che denota il mio stato d'animo, certo. E invece no, caro senatore, non si tratta di Pablo Neruda, ma di Marta Medeiros, brasiliana di Porto Alegre, pubblicitaria e cronista per un giornale che si chiama Zero Hora, un errore nel quale è facile incorrere, perché in internet gira voce che si tratti di una poesia di Neruda, anche se in realtà non lo è. Insomma, il laureato in lettere e filosofia Clemente Mastella ha sbagliato citazione. A proposito di citazioni letterarie e di cultura in genere, fra poco parleremo di quella che da molti è considerata una bassa cultura. A dopo.